Invece di andarmene da qui, piuttosto che lasciarti ancora la soddisfazione, ho deciso di cambiare totalmente la mia posizione, è solo che mi persi. E ancora ieri consideravo che se tu non c'eri io, però è un pensiero inutile. Ma sì, lo so qual era il modo esatto per riavere tutto, è solo che mi persi. E poi chi? Suo piccolo razzo lanciato nel blu dello spazio, con dentro frammenti di sé. È già sfidare il mondo, solo che mi persi. Ma sai che c'è? E se ognuno ha il suo piccolo razzo, io devo aver perso il contatto. E adesso, perdonami, se mi è rimasta soltanto la parte peggiore.